Presto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarsi. Ristor Radio Convento, la domenica sera, anche in questo caso apriamo lo spazio radiofonico. Grazie a Dio l'abbiamo aperto a 23, 18 e 12 secondi. L'avessimo aperto a 23, 18 e 10 secondi, non vi dico cosa avreste sentito. Per fortuna è andata bene e ci siamo salvati dalle dichiarazioni importanti che quest'uomo che abbiamo qui ai microfoni ha fatto. Ma che, come dice un vecchio detto, Paganini non ripete. Quindi non potremo farvi sentire, non potremo ripetere, perché sono esclusive del fuori onda. Allora, abbiamo due amici che sono venuti a trovarci, un amico di vecchia data e una, non so se new entry o fedele anche lei, new entry, quindi dobbiamo fidelizzarla al meglio. Hai trovato, questa è la nostra carta fedeltà, invece della raccolta punti per avere le pentole, noi abbiamo Claudio, quindi insomma usiamo Claudio come carta fedeltà, nel senso che le novelle le diamo in mano a lui, è tipo addestramento militare, no? Le forma per fare la serata e per rendere essere partecipi del nostro Domenica Convento. Allora abbiamo quindi Claudio. Le forma e le sforma. Ah, anche le sforma, perché lui nella vita fa il formaggiaio, quindi dà le forme al parmigiano, è per quello che è così bravo, perché dà una massa in forma e liquida, lui rende il cerchio del parmigiano. Assolutamente, assolutamente sì, ci piace rendere il mondo più tondo e più provocante. Ah, addirittura, dov'è la provocazione del parmigiano? La provocazione sta nel mettere due capezzoli in fondo alla forma. Ah, e cosa hanno di speciale? Cosa rendono di così speciale? Perché sai, il capezzolo in fondo è sempre... Ah, beh, perfetto. Guarda che l'obiettivo è che lei torni, non che lei se ne vada e non torni più, te lo ricordo, eh. No, l'obiettivo è che lei venga. No, ma quello è il tuo obiettivo, non è il nostro. Cioè, abbiamo due riferimenti diversi. Anche il mio. Quale dei due? Che venga. Chi? Io. Tu. Ah! Ah, quindi c'è dell'interesse. C'è del tenero. Hai visto? Sembrate due brioche alla crema. Dovete solo farcirvi a vicenda. Lei vuole sempre approfittare, io invece me la tiro e niente. Niente, questi uomini del 2020 sono troppo pretenziosi. Ti ricordo che siamo nel 2019. Ma giusto, sei già proiettato al... Esatto, ma no, ormai è cioè, il 2019, quello che è dato, ormai è finita. Cioè, bisogna guardare al futuro come le aziende. No, c'è ancora molto da dare. No, dici. Cioè, sempre essere altruisti e dare sempre tutto fino in fondo. No, beh, fino proprio in fondo. Non abbiamo, tra l'altro l'abbiamo bistrattata fino ad ora, nemmeno sappiamo il suo nome, non l'abbiamo fatta presentare. Nives, da dove vieni? Goito, benissimo. Che fortuna hai avuto nell'incrociare Claudio? Cioè, qual è stata che lotteria hai vinto, ecco, per avere la fortuna di incontrare Claudio? Siamo due piloti di drifting. No. Siamo conosciuti in pista. In pista, perfetto. Tra un traverso e l'altro. Diciamo che la tua gara non è finita benissimo, venendo come... No, a parte gli scherzi. Un incidente domestico. Ah, indipendente dal drifting. E spieghiamo ai neofiti cosa vuol dire drifting, così almeno lo rendiamo, come dire, una descrizione che tutti possono capire. È una tecnica di guida derapata, che praticamente si fa derapare la macchina e si cerca di controllare il posteriore, tutto di traverso, non devi mai raddrizzare. Esatto. Si usano auto a trazione posteriore, noi abbiamo due BMW, io un M3, lui un 328. Uh-huh. E niente, stiamo facendo il campionato italiano e dovremmo... Wow. Ecco, per far capire anche qui ai neofiti più o meno è la struttura del rally, immagino, no? Quindi quello che si vede... No, è una gara di abilità la nostra. Sì, però chiaro, per capire la derapata, per capire la formula, più o meno è quello che tutti abbiamo visto fare nel rally, che a differenza, ad esempio, della Formula 1, in cui le macchine vanno dritte, il rally è quasi tutto di traverso e le curve non si prendono come noi esseri umani facciamo. Esatto, non possiamo mai raddrizzare, altrimenti abbiamo già zero punti in gara. Ah, e delle penalità, esatto, delle penalità, quindi sì. È tutto da fare in derapata. C'è da seguire una determinata linea che ti danno i giudici la mattina, poi ci sono dei clip point che devi sfiorare o col muso o col... Ah, ok. E come, non voglio fare paragoni sbagliati, come i cavalli, come l'ippica fondamentalmente. Esatto, come gli sci, sì. In sostanza. Però forse no, più ippica, perché lo sci è una pista dritta, mentre il drifting non è lo stesso circuito, ma ci saranno varie postazioni, varie difficoltà, varie inclinazioni, sì, quindi più o meno come una gara tipica. È composto da 3 o 4 curve di un autodromo. Esatto. E perdonami Claudio, perché è più facile immaginarlo da lui, cosa ha affascinato te, cosa ha colpito e cosa ha portato al drifting? Perché perdonami, già una donna si dice che al volante non è che sia uno spettacolo, qui abbiamo addirittura una pilota professionista che non pilota nemmeno normalmente, così spericolata, bisogna capire da dove è arrivato. È arrivato dal secondo posto del campionato europeo. Ah, però, quindi anche medagliata, quindi non solo professionista. Beh, io volevo partire da un po' più indietro, cioè cosa t'ha legato alla velocità e al pericolo, ecco, diciamo così. Ma i miei genitori mi hanno creato un neurone in testa. Sì? Solo, sì, io ho solo moto e motore. Un microchip. Ho una testa da uomo, diciamo, sì, un corpo da donna. Sì. E quindi fin da piccola io, Claudio dice che di era no. Motore, ci salivo. E pare che a te la mente da uomo non interessa, a te si interessa il corpo da donna, quindi figurati, se anche la mente da uomo poi puoi tralasciarla, no? Esatto, guido esatto. Come un uomo, anche meglio, in un corpo da donna. Beh, quindi direi massimo del fascino, no? Sì, ciao, ci sono tutti. Storie su storie, storie. Sì, storie. Sì, fantastico. E da quando hai iniziato a guidare? Nel 2015. A quanti anni, quindi, perdonami? Oddio, devo dire proprio l'età. No, beh, a quanti anni hai iniziato? No, troppo. No, adesso ho 43 anni, ho cominciato a 39. Ah, quindi, perdonami, in tardissima età. Sì. Cioè, non è non è una bomba che ti è esplosa da giovane che hai portato avanti. No, è venuta in tarda, in seconda fase, insomma. Sì, il drift l'ho conosciuto un po' tardi, perché qui in Italia non c'è da molto. Sì, beh, certo. È ancora più sorprendente, perché di solito è da quando si ha una tenera età, ecco, che si portano avanti queste passioni. Invece a te è arrivata folgorante in età adulta e l'hai conosciuta così. Esatto. E da dove l'hai conosciuta? Vedendo una gara, immagino, o... Ero al Mantova Motor Festival, l'ho visto un team che faceva drifting e ho detto, voglio imparare anch'io. Fantastico. Quindi sono partita subito con un'auto stradale a trazione posteriore, un BMW, e ho cominciato a provare così da sola, sono proprio autodidatta. Ah, però. Comunque ci sono le scuole, ci insegniamo anche noi, volendo. E quindi uno può andare anche a fare i corsi. Ah, wow, magari penso 3-4 che... anni fa ce n'erano già di sì, meno. Sì, certo. Penso che mi sono già bruciato la domanda, perché volevo chiederle, come dire, com'era stato il suo esame della patente. Ho avuto paura a pensare al suo esame della patente, ma ancora era come dire, era non trasgrediva ancora le regole. E dal punto di vista, non so se è successo e spero non vi succeda mai, dei danni come li gestite? Ma io fortunatamente... Cioè, anche facendo magari lezioni, così via, può essere, insomma, che qualcosa vada storto e che non vada bene. Come vengono gestite quei momenti? Sì, magari, vabbè, abbiamo fatto cose da poco, magari rottura di un fanale o proprio una scheggina sulla carrozzeria. Ah, ok, quindi riuscite, sì. A... Per noi i danni più grossi arrivano al motore, perché siamo sempre al limitatore, sempre al limite, sempre... Ah, è sollecitato, troppo sollecitato. Sì. Ma perché, beh, si gioca anche su marce basse, immagino, no? Oh, sì, cioè i giri sono alti, sempre su di giri, sì. Ah, esatto, quindi i giri alti, sì. non gli fa molto bene. La manutenzione, i cambi dei pezzi, tutti a carico vostro, ve ne occupate voi o avete un team di, chiamiamoli, meccanici, ecco, che, cioè, era la domanda, presuppone un'altra domanda: siete anche competenti, vi piace essere competenti anche dal punto di vista tecnico o preferite essere solo piloti? Allora, Claudio, sì, io guido e basta, no, mi faccio, vedi, aiutare. Solo esecutrice. Però vorrei imparare a gestirmi un po' la mia macchina, perché sono molto molto gelosa, la mia fidanzata, la mia M3. Beh, anche perché comunque al di là della... insomma, è anche utile per capire i problemi, no? Esatto, perché sì. Adesso io banalizzo perché lo seguo molto, però dicono che Valentino sia Valentino rispetto agli altri perché abbia anche una competenza tecnica sul mezzo molto alta. Quindi sì, questo chiaramente aiuta a diventare campioni, diventare ancora più forti. Valentino Rossi. Ah, scusa, no, non lo stilista Valentino. Ma tu pensavi a quello. Parliamo con suo padre. Sì, lo so che lui è un matto, un altro matto. Sì. Wow. Intanto viene a trovarci e... Sono due con cui andare fuori la sera, quei due lì, mi sa che sono belli simpatici. Ci giriamo lontani. Anche sì, se è matto? Lo forte? Sì, è proprio pazzo. Beh, non può non aver cresciuto un figlio così dal nulla. Abbiamo girato una volta anche con Valentino Rossi a Talacchio, 2018. Lui è arrivato con la sua Corvette gialla. che... Ma sono, beh, forse non lo sapete, o magari parlando con gli addetti lavori sì, sono vere quindi queste voci che una volta lasciata la moto, le due ruote, passi alle quattro, o non si sa nulla, o è solo una seconda passione? Non si sa, però se la cava bene anche con le quattro sì. ruote. Però ci sono stati forse due o tre anni fa, ecco, adesso non più, molte voci di questo genere che dicevano che stesse mollando le moto per passare all'auto da strada, in sostanza, no? Sì. C'era parlato addirittura delle Ferrari, ma quelle penso che non ci arriverà mai. Penso che sia più un pilota da drift o da rally. È più divertente. Sì, ma anche lui ha sempre, come dire, mostrato un'inclinazione e una passione più forte per quel tipo di mondo. Va bene, dai, allora, lo so, devo cambiarlo perché qui mi sono già fatto male 55 volte. E bene, allora speriamo di incontrarvi sicuramente presto, quello sì, per avere altre notizie, per scoprire altre cose della vostra passione, e in bocca al lupo per le vostre gare, per le vostre esibizioni e anche per l'amore che è palesemente sbocciato tra di voi. No? No. Siamo amici. Ah, solo amici. E tu ci hai provato 10 minuti per poi negare quando t'ho dato là. No, io prometto tanto, ma è troppo amica e teniamola tranquilla. Ma sai, potresti fare presidente del consiglio. Sei un perfetto politico, perché hai promesso per 10 minuti amore eterno e poi ne sei uscito con siamo solo amici. Quindi direi che ha una carriera scritta da politico. È la realtà. Esatto, carriera scritta da politico. Grande Claudio. Ragazzi, grazie mille allora e a presto e in bocca al lupo per tutto, come dicevo prima, per la grande passione che avete. Ciao! Ciao! State ascoltando Ristoradio Convento.